Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Stefano Quercetti, produrre giocattoli in Italia, di Alessandra Scaglioni. Produrre giocattoli in Italia e riuscire ad esportarli anche in Cina, il paese dove si concentra il 90% della produzione mondiale di giocattoli. È l'azienda protagonista della puntata di oggi di Voci d'impresa, fondata da Alessandro Quercetti ed oggi guidata dai tre figli, Andrea, Alberto e Stefano. Inizia subito dopo la guerra, quando mio padre, tornando dalla Seconda Guerra Mondiale, lui faceva il pilota, si è trovato ad inventare la sua vita, quindi cosa fare dopo la guerra. Ha fatto varie cose, tra cui è finito poi in un'azienda di giocattoli che produceva dei giocattoli in Torino e per un po' di tempo è stato lì, ma non è mai stato pagato da questa azienda di giocattoli e allora poi ha deciso di vendere i giocattoli che produceva questa azienda, nel frattempo farsi pagare e ha pensato, dice, un bel settore, mi piace e proviamo a fare qualcosa in maniera autonoma. E così è nata casualmente la società, la Quercetti. Siamo nei primi anni 50. L'azienda è rappresentata dal solo Alessandro Quercetti, che si occupa di tutto o quasi. La cosa straordinaria di mio padre è che riusciva a fare la parte tecnica, quindi si costruiva autonomamente gli stampi, aveva poi contattato dei terzisti che stampassero con le macchine con questi stampi, poi confezionava e andava a vendere. Faceva assolutamente tutto. Il primo prodotto, che è un cavallino che lui che galoppava, inizialmente in realtà pensava di farlo sgroppare, no? Però poi il progetto è venuto bene così, che galoppasse. E la prima distribuzione è andata molto bene, ma poi non funzionava correttamente, allora l'ha ritirata tutta. Il secondo anno è riuscito a risolvere il problema della qualità, ha rivenduto tutti i suoi cavallini che riusciva a produrre, sono andati benissimo e di lì è nata effettivamente in maniera ufficiale la Quercetti. Poco dopo nasce un altro giocattolo che sarà il simbolo dell'azienda e che viene esportato e copiato in tutto il mondo. Dopo questo cavallino, diciamo, il prodotto che ha poi caratterizzato ed è ancora oggi il simbolo della Quercetti sono i chiodini. I chiodini sono questo mitico prodotto composto da una tavoletta bianca piena di fori su cui si possono inserire dei chiodini colorati di varie dimensioni. Inizialmente questo prodotto era fatto in cartone con, al posto dei chiodini, dei cerini, quindi con la testa peraltro incendiabile. Oggi sarebbe impossibile da pensare a una cosa del genere. Mio padre ha ingegnerizzato il prodotto, l'ha trasferito dalla carta, da un sistema molto artigianale, un sistema industriale con plastica, macchina di iniezione e tutto quanto. Alessandro Quercetti studia ed inventa i suoi giocattoli. Ma intanto l'azienda cresce e lui si circonda di collaboratori. Nei primi anni 70 i dipendenti arrivano quasi a 300 e l'azienda va molto presto alla conquista di mercati europei. Noi abbiamo ricevuto proprio di recente un premio alla fiera di Norimberga, che è la fiera per il settore del giocattolo la più importante del mondo. Abbiamo ricevuto il premio per i 50 anni di partecipazione consecutivi a questa fiera. Quindi, poiché l'attività dell'azienda risale quasi a 61 anni fa, vuol dire che per i primi 10 anni siamo stati nel settore nazionale e poi ci siamo allargati e siamo andati in Europa, in Germania, che per lungo tempo è stata anche uno dei nostri principali mercati. All'inizio non è molto difficile, ci sono poche aziende che producono giocattoli e il mercato risponde. E dopo l'Europa tocca agli Stati Uniti. Specie con i nuovi prodotti che aveva pensato mio padre, quelli sugli estivi, quindi sia gli aeroplani volanti, sia i missili, l'altro prodotto simbolo nostro è il Thor. Il Thor è uscito in corrispondenza del primo missile che partite da Cape Canaveral, mio padre aveva immaginato un missile che partisse con un elastico e tornasse giù con un paracadute, con tutti dei meccanismi aerodinamici per il suo controllo. Molto bello. E lì questo prodotto è stato talmente di successo che ci ha aperto tutte le porte dei vari mercati internazionali, tra cui gli Stati Uniti. Oggi sono presenti in quasi 50 paesi. Dei circa 10 milioni di euro di fatturato, il 65% viene dall'estero. In particolare le esportazioni riguardano gli Stati Uniti, seguiti da Francia, Spagna, Inghilterra e infine dalla Cina, dove la vendita avviene attraverso un distributore locale. Noi abbiamo un mercato, un piccolo mercato, non è una cosa grande, però è assolutamente simbolica, perché oltre il 90% della produzione mondiale di giocattoli viene fatta in Cina. Questo flusso contrario è veramente raro ed è degno di segnalazione. Ma è così particolare questo flusso al contrario che il governo cinese, che l'ha notato e che vuole che in Cina ci siano prodotti di qualità e controllati, ci manda dei suoi ispettori due volte all'anno a verificare che la nostra produzione sia eticamente compatibile, sia di standard qualitativi molto elevati. La cosa particolare è che noi dobbiamo pagare questi controlli. Mi chiedo perché l'Italia non faccia la stessa cosa, ma non solo nel settore del giocattolo. Per quanto riguarda l'Italia e il settore del giocattolo, il tema dell'imitazione esiste e bloccarla è quasi impossibile. Allora, diciamo che la Quercetti è caratterizzata dal fatto che da quando è nata è una sorta di sorgente di idee per tutti gli altri produttori di giocattoli. Quindi siamo stati copiati dall'inizio della nostra storia. Così tutti i nostri prodotti c'è una copia presente in Cina. Ultimamente ci hanno copiato addirittura le fotografie della confezione e, l'ironia della sorte, avendo copiato anche utilizzato il bambino che c'era sulla copertina, sulla scatola, che era mio figlio, allora abbiamo potuto bloccare la scatola, non tanto la copia del prodotto, ma la scatola sì. È difficilissimo, sì, assolutamente difficile, tant'è che la cosa, ovviamente noi ci proviamo sempre, però conviene di più innovare, no? Innovare e essere sempre avanti rispetto agli altri e avere una qualità superiore rispetto a quella che mediamente può essere proposta dal produttore cinese. Dal punto di vista della produzione, invece, Quercetti ha fatto una scelta precisa. Tutta la filiera è in Italia, sia quella rivolta al mercato interno che quella venduta sui mercati internazionali. Lo stabilimento è a Torino. La nostra struttura è verticale, quindi parte dal progetto, realizzazione dello stampo. Noi abbiamo un'officina interna dotata di macchinari più moderni, produciamo lo stampo, poi abbiamo un reparto di iniezione che lavora 24 ore al giorno tutto l'anno e poi il reparto confezionamento. Noi siamo praticamente oramai in centro a Torino, una volta eravamo nella zona industriale di Torino che si è volatilizzata, non c'è più, c'è soltanto più il nostro stabilimento. Occupiamo all'interno circa una settantina di persone e poi abbiamo un indotto, sempre in Piemonte, di circa una 25-30 persone. Alla crisi, al momento, l'azienda fa fronte. Allora, nel nostro settore i dati ufficiali recitano che c'è una contrazione. L'anno scorso è stata intorno al 4%, quest'anno sembra ancora peggio, quindi intorno al 6-7%. Noi stiamo battendo in questo momento la crisi, quindi abbiamo un piccolo segno positivo che comunque oggigiorno è molto importante. I tre fratelli Quercetti sono cresciuti in azienda e si sono divisi i compiti. Siamo tre fratelli, primogenito Andrea che si occupa dell'export, il secondo si chiama Alberto che si occupa dell'immagine e dei nuovi prodotti. E poi sono io, Stefano, l'ultimo nato, che si occupa un po' di tutto il resto, diciamo. L'azienda è sempre stata nel nostro DNA. Noi abbiamo sempre vissuto insieme all'azienda. Mio padre e l'azienda è il suo quarto figlio, sostanzialmente. Forse è il primo figlio, a onor del vero. Quindi siamo permeati dell'azienda già da sempre, da quando è nato. C'è stato un periodo in cui la casa era a fianco all'azienda e noi che giocavamo in cortile, in mezzo alla plastica, in mezzo ai cartoni, sostanzialmente. Effettivamente i giocattoli non ci mancavano e oltretutto avevamo le anteprime sulle novità, prima di tutti gli altri, insomma. E poi li testavamo, e mio padre era molto severo sotto questo aspetto, quindi se per noi non erano prodotti che ci coinvolgevano, ci rifletteva prima di metterlo sul mercato. I figli, la terza generazione, sono 7, stanno studiando e l'azienda, se saranno portati o interessati, potrà passare a loro. Penso per noi che noi tre fratelli siamo entrati in azienda appena possibile, effettivamente, dopo le varie lauree, noi siamo laureati in ingegneria, primogenito in economia, il secondo in architettura, quindi abbiamo varie tipologie di competenze tecniche. Quello che è importante non è tanto il titolo di studio in questo momento, quanto la passione per fare un determinato tipo di lavoro e quanto sei predisposto per farlo. Nel futuro l'idea è portare avanti l'azienda con una gestione familiare, senza escludere possibili novità. Un socio competente nel settore potrebbe non essere un'idea così negativa, assolutamente. Comunque un personaggio esterno alla famiglia che però abbia dentro di sé queste caratteristiche, capacità e passione. Il futuro per i giocattoli c'è, anche nell'era dei nativi digitali. Il bambino nella sua crescita ha sempre bisogno della manualità, assolutamente. No, io non sono contrario in assoluto ai giochi elettronici, hanno la loro validità, assolutamente, oramai sempre più anticipata nell'età del bambino, ma nella nostra fascia, che è quella che va da un anno ai 6 anni, 7 anni, massimo 8 anni, le necessità del bambino sono sempre quelle di una volta. Quindi i colori, la creatività, il formare delle immagini autonomamente, senza seguire degli schemi precostituiti, i movimenti particolari, piccoli, precisi, che il bambino da un anno impara piano piano a mettere su. Il vero dato negativo è che il settore della produzione di giocattoli in Italia è ormai quasi scomparso. Dei 47.000 dipendenti che contava nei primi anni 70, oggi siamo a meno di 1.000. Nei primi anni 70 il settore del giocattolo in Italia occupava circa 47.000 dipendenti. Oggi, che applicano il contratto nazionale del lavoro, sono meno di 1.000 dipendenti. Perché moltissime aziende hanno pensato di delocalizzare la propria produzione per i noti costi inferiori che ci sono in Estremo Oriente e perché è il mercato tutto sommato più semplice. Infatti siamo stati tra i primissimi, il settore principale che è stato copiato da subito dalla Cina, quindi perché ci vogliono pochi investimenti tecnici, molti investimenti creativi che però sono facili da copiare. Soprattutto i grandi marchi producono tutto, ma ormai da decenni in Cina, se non in mercati comunque dell'est europeo. Si chiude qui questa puntata di Voci d'Impresa, che ha ospitato Stefano Quercetti. L'appuntamento è per domenica prossima. Vi ricordiamo che da questa settimana l'appuntamento con le storie delle imprese italiane raddoppia. Al sabato alle 13.15 va in onda Voci di Piccola Impresa, curato da Anna Marino e dedicato alle piccole aziende ed in particolare al tema delle start-up. Ritrovate tutti gli audio del programma su www.radio24.it.